Mix 24 di Giovanni Minoli. 1971. All'ospedale St. Luke di Houston viene preparata una sala operatoria per un parto cesareo. L'intervento dovrà svolgersi in condizione di totale sterilità. Venne al mondo e strillò come tutti i bambini. Sembrava un neonato sanissimo. David era affetto da Skid. Venne sistemato in una piccola bolla. Nei primi anni David non ci chiese mai: mamma, perché sono in questa bolla? Per lui era normale che la mamma lo abbracciasse con dei guanti neri. David sembra molto felice e attivo. È circondato di giocattoli affetto che rendono l'attesa meno difficile. Da principio si parlava di un successo e si diceva che la cura fosse dietro l'angolo. Ma i mesi diventano anni e ancora non c'è nessun progresso nella ricerca di una cura. Era sia un paziente che l'oggetto di una ricerca. Ma dopo anni di buio totale, un barlume di speranza. Salve a tutti. Per 12 anni lo abbiamo conosciuto come David, il bambino nella bolla. Ma questa mattina, all'alba, i medici lo hanno operato. E questo intervento potrebbe permettere a David di uscire dalla bolla. Il 7 febbraio 1984, David esce dalla bolla. Poi invece arrivò la brutta notizia. Lo sentii caldo, mi sembrò che David scottasse. Allora mi avvicinai a David, mi levai il guanto e gli accarezzai la mano. È stata la prima e ultima volta. Questa era la storia di David Vetter, il bambino cresciuto nella bolla. David era affetto da una malattia genetica per cui qualsiasi contatto con l'esterno gli sarebbe stato fatale. I medici dell'ospedale di Houston, per proteggerlo, lo hanno messo in una bolla di plastica sterilizzata dove ha vissuto 12 anni. È morto nel 1984 dopo un tentativo fallito di trapianto di midollo osseo. Finalmente adesso, per i bambini affetti da ADAS Kid, la malattia di David, è stata trovata una cura. Si tratta della prima terapia genica con cellule staminali a ricevere l'approvazione della Commissione Europea per la commercializzazione, ed è un successo della ricerca italiana. Alessandro Aiuti, responsabile area clinica dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica. Ecco, dottor Aiuti, che cos'è l'ADAS Kid? La DASKID è una grave malattia molto rara che colpisce i bambini sin dai primi mesi di vita. I bambini nascono senza difese immunitarie, quindi sono a rischio di gravi infezioni, e senza cura questa malattia porta alla morte nel primo anno di vita. Certo, e quindi l'unico modo per sopravvivere finora era quello di vivere dentro una bolla isolante, eh? I bambini vivevano isolati in attesa di un trattamento. Se avevano a disposizione un donatore per un trapianto, questa era la terapia di scelta, però non è a disposizione per tutti i bambini e può provocare anche degli gravi complicanze. Ma quante persone ne sono affette nel mondo dell'ADAS Kid? Nascono nel mondo circa 50 bambini all'anno, quindi sono veramente pochi, una malattia rarissima. In Italia nascono 2-3 bambini all'anno. Ma qual è l'aspettativa di vita delle persone affette da questa patologia? I bambini che nascono con questa malattia vivono pochi mesi se non hanno una cura definitiva, quindi è veramente una malattia molto grave. Certo, ma in cosa consiste questa nuova terapia genica? La terapia genica che è stata sviluppata all'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica a Milano e che oggi è diventato un farmaco approvato. Consiste in una singola somministrazione di un farmaco, le cellule staminali dello stesso paziente, che vengono prelevate, corrette e poi reinfuse, quindi una singola somministrazione che cura la malattia. Quindi si tratta di correggere le cellule e reinserirle nel paziente, dopo averle curate, così? Esatto, le cellule vengono corrette al di fuori del paziente, e inserendo una copia sana del gene in modo tale che poi possano produrre l'enzima mancante, l'enzima adenosina diaminasi, che è quello che manca in questi bambini. Ma questa è la prima terapia genica con cellule staminali approvata al mondo. Quanti anni ci sono voluti per arrivare a questo risultato? Ci sono voluti oltre 20 anni per arrivare all'approvazione di questa terapia come farmaco, di anni di duro lavoro, di ricerca e sviluppo, condotti da un team di ricercatori clinici, attraverso la conoscenza della malattia, le ricerche precliniche e le ricerche cliniche è stato possibile arrivare a questo successo molto importante. Ecco, dottor Aiuti, ma questa terapia sarà applicabile a tutte le persone affette da SCID? Questa terapia sarà applicabile a tutti i bambini che non hanno a disposizione un donatore compatibile in famiglia. La maggior parte dei bambini che nascono non hanno un donatore, quindi è applicabile alla gran parte dei bambini affetti da questa malattia. Certo, ma quando sarà commercializzata? A breve, ha ottenuto l'approvazione dalla Comunità Europea poche settimane fa e quindi si attende solo l'ultimo via libera da parte dell'AIFA e quindi a brevissimo potrà essere somministrato il primo farmaco di terapia genica al mondo e verrà somministrato al San Raffaele, l'ospedale San Raffaele di Milano. Ma a quale prezzo? Il prezzo sarà stabilito dall'azienda farmaceutica Glaxo GSK insieme all'AIFA, sicuramente sono farmaci costosi perché devono rispondere a dei criteri di qualità molto alti e il processo di produzione è molto complesso, però ricordiamo che è una terapia che viene somministrata una sola volta, è una terapia salvavita e quindi... Ma il prezzo sarà coperto dal Sistema Sanitario Nazionale? Essendo un farmaco approvato dall'Europa, nel momento in cui verrà anche riconosciuto dall'Italia, sarà rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Senta, dottor Aiuti, con questa nuova metodologia sarà possibile curare anche altre malattie? La tecnologia potrà essere applicata ad altre malattie genetiche, tipo? Anche potenzialmente altre immunodeficienze, la malattia del sangue come la talassemia, malattie neurodegenerative. Naturalmente per ogni malattia va sviluppato e prodotto un farmaco specifico perché è una terapia personalizzata. Senta, un'ultima cosa, lei è un figlio d'arte, suo padre Ferdinando è stato l'immunologo che quando i malati di AIDS erano considerati degli appestati baciò sulla bocca una paziente sieropositiva. Ecco, cosa ha ereditato da lui? Ho ereditato la passione per la scienza, per la ricerca, la curiosità e il rigore e soprattutto la umanità nel rapporto con i pazienti e prima di tutto per me, e questo è quello che mi ha insegnato mio papà, viene il paziente e la famiglia e del paziente, quindi questo è quello che mi ha guidato in questi anni di ricerche e di attività clinica in questo ambito. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 sms. Beh, noi continuiamo a presentare casi di punti di eccellenza della ricerca medica perché effettivamente è un settore nel quale le scoperte si susseguono in modo impressionante e anche in modo come dire che da riempire di speranza, insomma, per i risultati che si raggiungono in moltissime direzioni, no? Mi pare che questo sia, che dici, Pierangelo? E soprattutto dovrebbe essere partecipe tutto il comparto scientifico di ricerca, di scuola perfino. Una cosa che dovrebbe essere già anticipata negli studi dei licei, quello della medicina, e non da far affrontare dopo. Chissà perché si è escluso dalle materie di insegnamento un qualcosa che avvicini un'approfondita conoscenza della ricerca scientifica in campo medico, non per fare riferimento al passato che fu. Però io ricordo perfettamente come già, per esempio, negli studi di filosofia veniva contemplata quella parte fondamentale che da Cartesio in poi aiutava gli studenti ad avvicinarsi proprio alla scienza medica, un qualcosa che faceva parte della nostra formazione, non necessariamente soltanto umanistica, ma legata proprio alla pratica, alla prassi della medicina. Comunque risultati davvero straordinari dappertutto. Sì, molto, molto buoni, servono molti soldi. Tanti soldi. Servono molti soldi, purtroppo la sintesi alla fine è questa, follow the money. Pietrangelo, che eccola, cosa ci presenti arriva oggi? Thank you. pose that in your pretty hair. Got a lot of fame, but is anyone there? Allora? E allora oggi ha preso posto in metropolitana un fiume. Se ne stava tra i sedili e i corrimano, risaliva e scendeva dalle scale mobili, chiedeva permesso ai pendolari, voleva fare in fretta il suo passaggio e portava in coda, nella coda di questo straordinario fiume, il suo amore, l'amore suo per farlo solo suo. Insomma, ha chiamato Obelix stamattina, ha fatto recapitare un menhir, è in portineria, poi potremo vederlo, infiocchettato, e ha detto che sta arrivando qui Falbalà. E Falbalà è il fiume che non disseta. Tu l'hai capito? No, però lo farò tutti, spiegare dopo. Sono dopo. Tutti messaggi in codice. Sì, dici, eh? Sì, senti, secondo me sì. E tu dove vai? Dobbiamo parlare dell'attentato in Turchia. Purtroppo cioè, non è una cosa che mette di buon umore. No. Dobbiamo parlare dell'attentato in Turchia. Il bilancio dei morti non è ancora, mi pare, definitivo. Al di là dei morti è il momento e la congiuntura che è interessante, cioè che è significativa forse di quanto è capitato, perché proprio mentre la Turchia e Israele stringono di nuovo accordi, mentre la Turchia chiede scusa in qualche modo a Putin per l'abbattimento dei suoi aerei, il terrorismo estremista esplode di nuovo dove? Negli aeroporti. Questo purtroppo è... Guarda, stamattina leggevo, facevo la mia consueta rassegna stampa e leggevo il Financial Times e pensavo, c'era un commento e c'era un titolo d'apertura sulla Turchia che riapriva, no, le sue porte, cioè cercava quello che si chiama l'engagement, l'impegno con gli altri paesi. E dicevo, mamma mia, non è un caso. È certo che non, non è un caso. Tu che dici, Pietrangelo? Cioè, Dico che purtroppo siamo coinvolti fino in fondo in questa vicenda che tocca almeno due continenti nel pianeta. E fa bene sempre aprire i libri di storia e capire che cosa è accaduto nel passato per vedere come affrontare l'attualità. I fondamentalismi, ricordiamolo, hanno scatenato in Europa la guerra dei 30 anni. Sì. Adesso si ripresenta ancora più selvaggia, ancora più potente, nefasta, perché certo la tecnologia, le nuove armi, la possibilità di seminare morte con numeri ancora più spaventosi di quanto accadesse nel passato. Però ricordiamolo, la guerra dei 30 anni, e adesso questa è una guerra che non ha avuto fine, che è cominciata ancora prima dell'11 settembre e giorno dopo giorno è vicina ed è un alito addosso a noi che può esplodere e capitare in qualunque momento. Sì. Poi certo, tutte le analisi sono bene accette, la Turchia paga anche un prezzo d'ambiguità molto forte, perché se ricordiamo qual è stato il flusso di passaggio dei cosiddetti ribelli siriani, che poi sono l'avamposto di questa gramigna malefica che sta portando la morte, se poi consideriamo anche il gioco perverso che le potenze hanno stabilito intorno al terrorismo, dobbiamo aprire mille interrogativi, non ultimo quello di chiudere definitivamente i rapporti con quelle nazioni che fanno, che finanziano, che sono sponsor, che sono complici, che hanno le ambiguità. Ricordiamo che per esempio noi siamo in guerra con chi materialmente fa la guerra al terrorismo, siamo in guerra con la Russia, siamo in guerra con l'Iran e siamo alleati invece di chi lo sponsorizza. Finanza, questo è vero. Senti, Fabio ci scrive, c'entra poco, torniamo al discorso della medicina che facevi, c'entra poco, ma a scuola si insegna l'uso dei medicinali, si insegna a leggere il bugiardino, insomma una cultura dei medicinali. Beh, è già una cosa se effettivamente ci si abitua a valutare quelli che sono i rischi, le possibilità, le necessità che derivano dalla... Vorrei tornare sulla Turchia solo un secondo. L'attentato in Turchia è molto più grave di quello che immaginiamo, perché non è solo la questione dello spargimento di sangue. La Turchia oggi per l'Europa, per quel che resta di questa Europa, è la frontiera a Oriente. Certo, cioè noi abbiamo fatto un accordo con la Turchia. Lo paghiamo. Esatto. Se salta la Turchia, salta la nostra frontiera. Cioè, noi dobbiamo essere consci di quello che sta accadendo, perché potrebbe peggiorare notevolmente la già fragile situazione del Medio Oriente rispetto ai nostri confini. Salamino. Tutto è perdonato. Troppe se ne sono viste, Giovanni, troppe. Pure il selfie con Dudu e Vladimir Luxuria e poi la tavernetta al San Bitter. Tutto è perdonato. Tornerò. Un milione di posti di lavoro. Il contratto con gli italiani firmato porta a porta, l'odore di santità, ricordi Giovanni, e il baciamano di Bruno Vespa, tutto è perdonato. Il cucù alla Merkel, che è puro dadaismo rispetto alla cafonaggine di Matteo Renzi che smanetta sullo smartphone davanti a un attonito Vladimir Putin, tutto è perdonato. Anche voler mettere alla guida dei servizi segreti un suo compagno di merende, no? Ah no, no, non era lui, vero? No, se stai confondendo, no, giusto, padre, giusto. Però tutto è perdonato. Anche avere permesso alla sua fedelissima, ve lo ricordate, di passare indenne dallo scandalo della Banca Etruria. Vabbè, ma lei non c'è. No, non era lui. Ma chi era? Te stai confondendo. Ma non è suo papà? Sì. Burlava. Dai, li stai confondendo. Comunque, tutto è perdonato. E lui, siamo a fine giugno, finalmente, dal suo ricovero al San Raffaele di Milano, può ben dire: tornerò. Berlusconi è tutto, ma proprio tutto è perdonato. Anzi, Giovanni, dovremmo dire perdonaci, perdona tutti noi per avere sfrugoliato la mazzarella tutto il tempo. Certo, il cuore è matto. Il 14 giugno scorso è stato operato con un felicissimo esito. Adesso torna e decide di riprendersi il partito, non senza conseguenze immediate. È suo. Allora, intanto dismette il cerchio magico, che è il gineceo che l'ha tenuto ostaggio fino a qualche giorno fa. E se ne vanno via dalla stretta cerchia Maria Rosaria Rossi, detta Pata Punfete, la cui testa... Rotola, rotola, rotola... E se ne va via anche la fascinosa Alessia Ardesi, la cui testa... Rotola... Rotola verso il TG5. E se ne va perfino... Chi se ne va? Ve lo ricordate? Se ne va via pure Dudu. Sì, se ne va via. Facciamo. È innocente. Non è innocente. Allora, sulla tolda di comando di quel che fu Forza Italia, avanguardia del popolo della partita IVA, avamposto della rivoluzione liberale, fortezza di tutte le libertà, salgono, chi sale, salgono la figlia primogenita di lui, ovvero Marina Berlusconi, il presidente di Mediaset fedele Confalonieri e... è Enrico. No. Niente meno che direttamente Vladimir Putin. Che va a trovarlo, ma resta e salva un po' la situazione politico. Perché tutto è perdonato. Lui arriva da Mosca, ma... e metterà fine a questo catonio. Però, caro Giovanni, caro Mario... Se il cerchio magico piange, il giglio altrettanto magico non ride. Sembrava strano. Non ride perché, per esempio, della soave, silente e severa Maria Elena Boschi, giusto adesso che deve dare gas alla campagna per il referendum, non si hanno più notizie. È sparita. Si sta preparando, dai. Matteo Renzi non può che cantare così. Io cerco la titina, titina, mia titina, la cerco. Mario, al Senato si parla di... No, alla Camera. Sì, scusa, alla Camera si parla di banche, no? Sì, voto finale sui rimborsi sostanzialmente. Poi ci sono anche un po' di normette all'atere su fallimento, procedure e così via. Ma insomma ci sono un po' di diciamo pratiche burocratiche sveltite per evitare i collassi poi nella fase di recupero. Ma entrerà lo Stato nelle banche? Questa è la notizia. Allora, direttamente... Mi pare molto difficile. Indirettamente, sì, bisogna vedere come strutturano un futuro intervento nel, su, insomma, mi pare inevitabile in qualche maniera un provvedimento urgente. Poi vediamo che cosa succede. Intanto vediamo il voto di oggi. È scontato. È scontato. Fa un po', posso dire sempre da bastian contrario controvento. I rimborsi automatici presuppongono che tutti abbiano sottoscritto così, senza sapere cosa facevano. E allora chi ha investito per esempio in un immobile e per la politica economica dello Stato poi ha perso il valore dell'immobile, che cosa fanno? Tanto per dirne una, cioè, bisogna chiederlo. Insomma, allora, secondo me si è introdotto un precedente molto pericoloso. Sono stati presentati in pompa magna i nuovi palinsesti della nuova RAI, del dopo riforma, della RAI a guida unica, della RAI, diciamo, renziana. Ecco, che cosa distingue questa RAI da una televisione commerciale tradizionale? Resta per me un difficilissimo rebus da sciogliere, ma mi sembra che il futuro sia al passato, leggendo i palinsesti. Può darsi che mi sbaglio, non so che. Non c'era bisogno di rottamare. Non c'era bisogno. No. Nessuno è stato rottamato, anzi, mi sono stati tutti concentrati. No, certo, col canone in bolletta, la domanda che fai tu è una domanda che penso alleggerà nelle prossime settimane in Italia, rimbalzando di giornale in giornale, oppure comunque da editore a editore. Intanto, col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. BMJ, maggio 2016. L'errore medico è la terza causa di morte negli Stati Uniti. L'errore medico succede ed è un atto non voluto o che non raggiunge il risultato voluto, oppure un insuccesso esecutivo di un atto assolutamente determinato o un insuccesso di pianificazione. L'esempio che riporta in questo articolo è tipico e ci chiarisce perché poi nelle statistiche l'errore medico non compare come causa di morte. Una donna giovane in buone condizioni dopo un trapianto, non viene specificato che tipo di trapianto, viene ammessa per disturbi generici in ospedale e, siccome trapiantata, viene sottoposta a esami estensivi, tra cui anche una pericardiocentesi, cioè andare a vedere il fluido che c'è tra il cuore e il foglietto, il pericardio che avvolge il cuore, per vedere se questo fluido ammalato giustificasse i sintomi della signora. Allora, dopo pochi giorni, perché viene dimessa, viene riammessa in ospedale con un'emorragia addominale e un arresto cardiorespiratorio. All'autopsia si è visto che nel fare la pericardiocentesi l'ago aveva lesionato un piccolo pezzo di fegato, creando un piccolo aneurisma di un'arteria che poi si è rotto, e quindi la rottura ha provocato l'emorragia addominale e quindi la morte. Naturalmente nella diagnosi di dimissione c'è scritto malattia cardiovascolare, perché in qualche modo ha avuto un accidente cardiovascolare, ma invece di fatto è un errore medico, anche se l'atto è stato condotto probabilmente da persone assolutamente competenti. Può capitare, succede, ma succede anche con qualche frequenza, tanto che i ricercatori sostengono che dopo malattie cardiovascolari e cancro l'errore medico è la terza causa di morte, seguita, se vi interessa, dalle malattie respiratorie, dai suicidi, dagli incidenti e dalle armi, perché negli Stati Uniti, come sapete, l'utilizzo di armi è capace di ammazzare assai. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi? Oggi una canzone per chi lascia qualcun altro accanirsi tra le cose. Fai pure la tua scorta, io sarò pietra. Levante, ciao per sempre. Prendi tutto quello che ho, crollami addosso, e quel che posso, e quel che mostro, e qualche mostro mi dirà che noi non ci avremo mai. Prendi tutto quello che ho, che non mi importa, un po' alla volta, fai la scorta e sarò pronta ad ogni impronta. dire. Non sei stato mio e mai mio sarai tra questa gente. Tutto il bello, tutto il buono porto via nel mentre. Caro amore, ciao per sempre. Prendi tutto quello che se poco vale niente, lascia il mondo indifferente, chissà se poi un giorno lo userai. Prendi tutto quello che ho, cemento e seta, e sarò pietra, e sarò lieta, e sarò pronta nell'avere quello che non. Ciao per sempre.